Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Il debito pubblico italiano, non c'è bisogno di spiegarlo, è un tema assolutamente ricorrente ormai da mesi su tutti i giornali, ci crea non pochi problemi per la sua entità, definita anche dallo stesso Ministero dell'Economia imponente, soprattutto negli ultimi mesi con i morsi della crisi sempre più forti, ci ha fatto tremare con rendimenti alle stelle e livelli vertiginosi dello spread. Ricorderete tutti il record assoluto dello scorso 9 novembre a 572 punti base, il differenziale tra i nostri titoli di Stato decennali e quelli tedeschi, il termometro della scarsa fiducia sullo stato del nostro debito. Questa mattina abbiamo avuto anche l'ultimo dato, 1.935,8 miliardi in gennaio. Proprio in questi frangenti si è aperto un dibattito molto acceso, come tanti ricorderanno, sull'opportunità di acquistare i titoli di Stato del nostro Paese per diffondere un clima di maggiore fiducia. Ricorderete tutti, perché vi abbiamo dedicato diverse puntate, l'appello dell'imprenditore toscano Giuliano Melani, che per lanciare questo messaggio di fiducia aveva addirittura comprato un'intera pagina del Corriere della Sera. Ricorderete il BTP Day e il Bot Day, iniziative promosse dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, pensate proprio per avvicinare i risparmiatori, soprattutto i piccoli investitori, ed invogliarli ad acquistare appunto i titoli del debito italiano. Le opinioni che si sono confrontate anche qui a Salva Danaio erano diverse, dipendevano dal particolare momento che si stava attraversando. Ora però qualcosa sembra cambiato, siamo in una condizione di sicuramente di maggiore normalità rispetto ai mesi passati, lo ha riconosciuto questa mattina anche la Banca Centrale Europea nel suo bollettino mensile. Lo spread è sceso sotto i 300 punti base, questa mattina viaggia intorno a 284, i rendimenti dei titoli di Stato sono tornati su livelli rassicuranti. E anche alla luce di questa nuova situazione, oggi ci chiediamo quali sono le opportunità che si possono cogliere, quali ragionamenti si possono fare in merito all'acquisto di titoli del nostro debito pubblico. Perché parliamo di questo? Perché anche il Tesoro italiano ha pensato di approfittare di questa situazione e di rivolgersi soprattutto in un'operazione anche di fiducia alle famiglie italiane. Ed è così nato questo nuovo titolo di Stato, questo nuovo prodotto chiamato proprio BTP Italia. È stato presentato nei giorni scorsi, prima al Ministero dell'Economia, ieri mattina in Borsa Italiana, ed è un titolo che sarà possibile sottoscrivere a partire dal lunedì 19 marzo, da lunedì prossimo. È progettato per una fruizione online, potrà essere sottoscritto fino al 22 marzo in asta via internet sulla piattaforma di Borsa Italiana, che è il segmento appositamente dedicato al settore dei titoli di Stato, il MOT, ma potrà essere sottoscritto anche nella modalità tradizionale, cioè andando in banca, rivolgendovi al vostro consulente di fiducia. Sarà un titolo indicizzato all'inflazione italiana e prevede anche un premio fedeltà per chi lo detiene fino alla scadenza di 4 anni. Allora, anche alla luce di questo nuovo strumento, di cui oggi vi spiegheremo bene il funzionamento, possiamo pensare di avere davanti una nuova primavera per il mercato delle obbligazioni del Tesoro? Come è corretto cogliere questa opportunità? Come si fa e soprattutto come funzionerà appunto questo titolo? Stamattina abbiamo tanti interlocutori con noi. Vi anticipo già che nella seconda parte di Salva Danaio sarà con noi Maria Cannata, direttore del debito pubblico del Ministero dell'Economia, che è proprio l'architetto anche di questa operazione, oltre che della gestione dell'imponente debito pubblico italiano, quindi una figura assolutamente autorevole, pubblica. E poi, per spiegarci invece le technicality di questa emissione, questa mattina di nuovo con noi Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. Dottor Poletto, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Che avevamo intercettato in tutta fretta la settimana scorsa quando l'operazione è stata presentata al Ministero dell'Economia. E poi ringrazio anche in questo caso per essere ritornato con noi in consulente finanziario indipendente Gianni Lupotto. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, ascoltatori che naturalmente possono chiamarci e chiederci tutti i dettagli su questa operazione. 800240024 è il numero verde per intervenire in diretta. Avete anche l'alternativa, come sapete, dell'SMS. Ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo di posta del nostro programma salvadanaio@radio24.it. Potete sollevare le vostre considerazioni anche sul nostro profilo Facebook, siamo all'indirizzo salvadanaio trattino radio 24. Rapidamente la borsa oggi, una borsa priva di spunti, non si muove molto né Piazza Affari né il resto d'Europa. Abbiamo Londra negativa per lo 0,13%, Francoforte positiva più 0,22%, Parigi leggermente negativa meno 0,04%, Milano meno 0,01%. Milano ha vissuto una mattinata migliore, poi ha perso smalto, è arrivata a guadagnare lo 0,7% per ridurre appunto drasticamente il suo guadagno, una giornata che vede ritornare molte vendite sui titoli del settore bancario e delle popolari in particolar modo. È però in pregilo il peggior titolo in questo momento, che perde il 2,78%. Il gruppo sta vivendo momenti piuttosto importanti, perché sta entrando nel vivo la partita per il controllo della società in vista dell'assemblea del prossimo 3 maggio. Tra gli altri titoli in ribasso, Atlantia, la ex autostrade, meno 1,65%, le popolari perdono circa 2 punti, mentre in rialzo abbiamo per 3,5 punti STM, Autogrill più 3,33%, Tozze più 2,32%, e poi il settore petrolifero vede in crescita Saipem più 1,54%, Eni più 0,7%. Euro su dollaro a 1,30,45, vi dicevo prima, lo spread fra BTP e Bund questa mattina, in questo momento, è sui 284-285 punti base. Allora andiamo subito al tema di oggi, lo avrete sicuramente letto su tutti i giornali, vi leggo come titola su questo tema questa mattina il Sole 24 Ore. BTP Italia, parola ai risparmiatori, lunedì parte l'emissione del titolo indicizzato all'inflazione collocato attraverso il MOT. Abbiamo proprio il responsabile del MOT questa mattina, Pietro Poletto, Borsa Italiana. Ancora buongiorno, sicuramente un'operazione molto importante sulla quale ripone molte aspettative anche Borsa Italiana, poi ci faremo raccontare anche che tipo invece di aspettative ha il Tesoro rispetto a questa operazione, che vuole attirare soprattutto gli investitori domestici, i piccoli risparmiatori, con uno strumento semplice, di facile sottoscrizione. Anche Poletto, intanto vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori come funziona il segmento di Borsa Italiana sul quale sarà possibile operare con questo titolo? Beh, diciamo innanzitutto che la modalità proposta dal Ministero del Tesoro per il collocamento di questo nuovo titolo è assolutamente innovativa e ovviamente il Ministero del Tesoro ha deciso di sfruttare l'infrastruttura di Borsa Italiana e del mercato MOT e il suo network distributivo. Di fatto abbiamo cercato di minimizzare gli impatti sugli intermediari e sugli utenti finali, per cui la modalità operativa di sottoscrizione nella fase di cosiddetta distribuzione nei 4 giorni sono analoghe a quelle che avvengono quando uno acquista un titolo di Stato sul MOT. L'unica differenza è che in questi 4 giorni, dal 19 al 22, il prezzo è fisso, 100 sarà il prezzo dell'emissione, e tutti possono comprare al prezzo 100, che verrà proposto sul mercato dai due banche distributrici, che sono Unicredit e Banca IMI. Tutte le operazioni di sottoscrizione in questi 4 giorni verranno regolate valuta 26, il giorno 26. Alla fine del 22, l'ultimo giorno di collocamento, ci sarà un ulteriore decreto da parte del Ministero che confermerà l'importo che andrà a essere messo relativamente al BTP Italia e le ultime caratteristiche finali della cedola e il rendimento relativo. Dopodiché, a partire dal 26, il titolo sarà negoziato sul MOT come tutti gli altri titoli di Stato. Per cui sarà possibile anche una, come dire, sottoscrizione, un acquisto successivo sul cosiddetto mercato secondario, no? Sì, però precisiamo una cosa, che è una cosa totalmente nuova, il cosiddetto premio fedeltà. Allora, il Ministero ha deciso di riconoscere per gli investitori privati, persone fisiche, un premio fedeltà che di fatto si realizza nell'ipotesi in cui l'investitore tenga fino alla scadenza questo titolo. È un 4 per 1000 lordo e questo premio fedeltà di fatto si ha solo però se si compra il titolo nei 4 giorni di distribuzione, dal 19 quindi, al 22. Quindi solamente se viene sottoscritto in questa fase proprio di collocamento. Certo, sì. Beneficerà fino alla scadenza di questo premio. Ovviamente poi dal 26 si potrà comprare comunque il prodotto sul mercato, però non si avrà più questo beneficio. Benissimo, grazie Poletto per queste prime indicazioni. Adesso sulle altre tecnicalità appunto torneremo con lei. Volevo sentire un po' qual è la percezione dei professionisti, dei risparmi e della consulenza rispetto a questa iniziativa. Gianni Lupotto, eccoci di nuovo a lei. Ho letto molte considerazioni positive da parte di molti suoi colleghi in questi giorni su questa operazione. D'altronde lo chiamano il BTP formato famiglia, si ritorna un po' a proporre agli investitori quel prodotto che gli investitori italiani, i piccoli risparmiatori, hanno sempre voluto. Volevano il BOT e erano rimasti un po' sconcertati rispetto a quello che è successo negli ultimi mesi, quando il titolo di Stato, che avevano sempre considerato la cassaforte del proprio risparmio, aveva visto il crollo dei prezzi e il volo dei rendimenti. E adesso ritorniamo un po' anche in una condizione di serenità, no? Che cosa ne pensa Lupotto? Poi naturalmente andremo anche con lei a specificare magari le questioni tecniche che più di tutti, che in prevalenza le hanno sollevato anche i suoi clienti in questi giorni. Sì, anche noi abbiamo di questo nuovo strumento un'opinione positiva, parecchio positiva, perché arriva in un momento opportuno in cui il risparmiatore si riaffaccia al mercato dei titoli di Stato dopo le problematiche sperimentate nei mesi scorsi. Le caratteristiche innovative di questo strumento sono numerose e magari potremmo elencarle insieme. Oltre a quelle che ha già ben ricordato il dottor Poletto, quindi il collocamento diretto in borsa dal primo giorno e il premio fedeltà, ci sono altre caratteristiche interessanti. Questa obbligazione anzitutto ha una durata di 4 anni, che è una durata non eccessiva. Ci sono già strumenti indicizzati all'inflazione sul mercato che vengono emessi con durata superiore, 10 anni. La seconda caratteristica molto interessante è che è un titolo indicizzato all'inflazione, ma non all'inflazione europea, come capita per gli altri BTP inflazione sul mercato, ma all'inflazione italiana, e cioè all'indice cosiddetto FOI per le famiglie di operai e di impiegati, che è l'indice che interessa di più ai risparmiatori italiani che spendono i loro risparmi in Italia. Quindi possiamo dire che questa obbligazione, se comprata in emissione e portata a scadenza, garantisce certamente una copertura dall'inflazione italiana di qui a scadenza. Perché diciamo che prevalentemente la preoccupazione dei piccoli risparmiatori italiani è quella, chiaramente, preservare il proprio capitale, soprattutto dalle fiammate inflazionistiche che ci hanno accompagnato ripetutamente negli ultimi tempi. Dottor Lupotto, almeno credo, chiaramente tutti vogliono guadagnare qualcosa dai propri investimenti, ma l'obiettivo primario è quello di proteggere il proprio capitale. È proprio così, e questo è secondo noi il prodotto più adatto, perché innanzitutto ricordiamo che l'inflazione italiana in questo momento, dalle ultime rilevazioni, è più alta di quella europea. La rilevazione di febbraio parla di un 3,3% contro un 2,7 circa dell'inflazione europea, quindi questo strumento parte già con questo primo vantaggio. Oltre alla copertura dall'inflazione di questi 4 anni, però c'è un premio ulteriore che è dato da questa cedola, che verrà determinata al termine del periodo di collocamento, e che però possiamo provare anche a prevedere, una buona approssimazione, che è l'extra rendimento rispetto alla copertura dall'inflazione. Però c'è anche questo, ve lo faccio chiedere da un'ascoltatrice che è Maria di Alessandria, una particolare dinamica di questo titolo appunto legata ad un'eventuale fase deflazionistica del nostro paese. Vi faccio sentire Maria d'Alessandria, lo dico sia a Pietro Poletto che a Gianni Lupotto, e poi risponderemo nella seconda parte di Salva Danaio. Maria, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Scusate per l'abbassamento di voce, ma un po' di influenza. Cosa vuole fare qua? Ecco. Sono malanni di stagione. Grazie. No, volevo soltanto sapere questo, a proposito di questo BTP Italia. In caso di deflazione, e quindi insomma di una caduta dell'inflazione in sostanza, il titolo si deprezzerebbe, ci comporterebbe poi dei rischi nel rivenderlo poi in un secondo tempo sul mercato. Certo Maria, ecco, fatto bene questo a chiederlo, perché il Tesoro è stato anche piuttosto chiaro nel definire che cosa succede al rendimento di questo titolo qualora si verificasse una situazione deflazionistica come quella che lei appunto così ipotizza. A Salva Danaio oggi ancora buongiorno, da Deborah Rosciani vi spieghiamo come funziona edizione il BTP Italia, questo nuovo titolo lanciato dal Tesoro italiano che sarà possibile sottoscrivere a partire da lunedì prossimo fino al 22 marzo. Lo potete fare online con la vostra banca, appunto direttamente sul segmento di borsa italiana appositamente dedicato appunto a questo mercato, oppure potete andare direttamente in banca, fare una, naturalmente un'operazione tradizionale con il vostro intermediario, con il vostro consulente. È un titolo che ha una durata di 4 anni, che riconosce una cedola semestrale indicizzata al cosiddetto indice FOI, è un titolo quindi indicizzato all'inflazione. Il Tesoro italiano appunto ha reputato di voler fare questa operazione di fiducia anche tra i piccoli investitori italiani, perché è un titolo prevalentemente rivolto al pubblico retail. In questa, appunto, ripeto, operazione di fiducia, un investimento di medio termine che prevede questa remunerazione sempre allineata al costo della vita. Ma Pietro Poletto, Borsa Italiana, l'ascoltatrice che ci ha chiamato prima chiedeva: e se invece si delinea uno scenario deflazionistico nel nostro paese, che cosa succede al mio titolo, alla cedola, al rendimento di questo prodotto di investimento? Mi sembra una fantastica domanda per la dottoressa Cannata, che poi si collegherà, però comunque a parte la battuta, Prendendo appunti la dottoressa Cannata, ma sicuramente se vorrà poi rimarcare il concetto che adesso lei vorrà esprimerci, glielo faremo rimarcare. È ben definito il Ministero del Tesoro l'ipotesi dell'eventuale caso di deflazione nel semestre. La cedola dello stesso semestre viene calcolata moltiplicando il tasso cedolare semestrale fisso per il capitale nominale non rivalutato, che è il floor sulla cedola, garantendo per quel semestre un rendimento minimo dato dal tasso cedolare reale annuo. Di fatto c'è un floor. Un pavimento al di sotto del quale praticamente il rendimento non può scendere, teoricamente. Quindi anche da questo punto di vista c'è una protezione garantita dal Tesoro. Proposito è molto utile, sia sul sito di Borsa Italiana sia sul sito del Ministero del Tesoro c'è un'ampia documentazione e degli esempi proprio relativamente al BTP Italia, per cui invito tutti gli ascoltatori a visitare le sezioni dedicate, state create apposta relativamente a questi siti. Così possiamo fare anche delle simulazioni. Volevo anche precisare un'altra cosa che è molto importante, perché questo investimento si può effettuare con la garanzia che non vengano chieste delle commissioni di sottoscrizione da parte dell'intermediario. Detto questo, Poletto, poi lo chiedo anche ovviamente al consulente, però magari lo rimarchiamo anche con lei, mi sbrigo a fare l'intervista perché poi tra un po' devo lasciarvi entrambi e vado con la dottoressa Cannata. Chiaramente, se non si ha già un conto titoli aperto presso la banca, ricordiamo che questa è un'operazione a parte, il conto titoli poi va gestito economicamente e non perché si apre contestualmente l'operazione BTP Italia, si fa gratuitamente anche quell'operazione. Sì, allora è importante precisare che non ci sono commissioni di collocamento, esattamente come avviene per le altre aste sui titoli di Stato, BTP o quant'altro, per cui questo lo dirà la dottoressa Cannata, in base al decreto trasparenza di fatto non verranno applicate alcun tipo di commissione in fase di collocamento, per cui per l'investitore finale il prezzo è 100 e non paga alcuna commissione da parte degli intermediari bancari di cui si avvarrà. Tassazione? 12,5 come tutti gli altri titoli di Stato. Gianni Lupotto, lei è il nostro re degli esempi, io mi ricorderò sempre, me lo porto con me appunto come esempio di chiarezza ormai e lo racconto se riesco, perché è difficilissimo raccontare come funziona la ristrutturazione del debito greco, però lei appunto ci fa sempre degli esempi molto chiari per capire la dinamica di funzionamento dei prodotti di investimento. In quel caso era un caso, una deriva un po' più spiacevole, però ci ha fatto un esempio anche su quello. Allora, ammettendo che io lunedì vado in banca, mi rivolgo al mio consulente e chiedo di sottoscrivere 1000 euro di BTP Italia, che è tra l'altro il taglio minimo, no? Di investimento per questo prodotto. Lei ci ha detto prima, teoricamente siamo già in grado di calcolare il flusso cedolare e il rendimento di questo prodotto. Mi dice come ha fatto e soprattutto ce lo racconta a tutti? Sì, senz'altro. Allora, sono andato a verificare sul mercato secondario, i rendimenti attuali dei BTP normali e dei BTP legati all'inflazione. Il titolo che si avvicina di più quotato sul mercato attualmente è il BTP Inflazione, che scade nel settembre 2016, quindi 4 anni e 6 mesi. Inflazione europea, comunque, ribadiamo. Ricordiamo, ecco. Questo titolo attualmente ha quota circa alla pari, circa 100, e ha una cedola reale del 2,1. La dottoressa Cannata ieri ha ribadito che il Tesoro sarà un pochino più generoso, quindi io mi aspetto una cedola reale un pochino superiore a questo 2,1. Visto anche perché la nostra inflazione è un po' più alta, per cui necessariamente si deve... Mi aspetto una cedola reale leggermente più alta, aspettiamo che sia il 2,4 o 2,5. E mettiamo che l'inflazione nel periodo sia mediamente, adesso è più alta, ma volendo star prudenti, mettiamo che sia mediamente il 2%. Questo vuol dire che a tutti gli effetti questo titolo avrà un rendimento cedolare o simil cedolare del 4,5%. Il 2,5 è dato dalla cedola e il 2 è dato dalla rivalutazione del capitale dovuto all'inflazione. Quindi per 1000 euro investiti lunedì, tra 6 mesi, che cosa ci sarà sul nostro conto titoli? Perfetto, ci saranno il 2,5 moltiplicato l'inflazione di questi 6 mesi, quindi circa 25-26 euro di cedola, e più una restituzione dell'inflazione di periodo sul capitale di 1000, che se fosse l'inflazione fosse al 2%, essendo 6 mesi un punto, altri 10 euro dovuti all'inflazione. E abbiamo pagato la bolletta della luce e non ci fa proprio schifo per niente, insomma. Esatto. Oppure un'altra piccola rata. È presumibile un rendimento a scadenza, è presumibile con inflazione al 2% attorno al 4,5% annuo, che è molto meglio dei BTP non inflazione di pari scadenza, che in questo momento sono attorno al 3,3%. Dottor Lupotto, che altre curiosità le stanno sottoponendo su questo prodotto in questo periodo i suoi clienti, tanto per capire se anch'io con le domande che ho fatto sono riuscita un po' ad interpretare il percepito generale? Sì, la domanda principale è quella fatta dall'ascoltatrice, cioè l'effettiva copertura anche in caso negativo dell'andamento dell'inflazione, e aggiungo a quello che ha già ben detto il dottor Poletto, che non solo la cedola minima ha un floor, ma anche il capitale a scadenza, anche in caso di deflazione nell'intero periodo, è comunque garantito a 100, quindi non verrà mai rimborsato un capitale inferiore anche in caso di deflazione. Questa è la domanda più frequente, oltre alla richiesta sulla effettiva inflazione che viene calcolata e incorporata nei calcoli, come abbiamo detto, l'inflazione italiana. Lupotto, aspetti un attimo perché ho un'altra domanda per lei di Nino da Bari, che potrebbe anche essere tipicamente una domanda che le possono rivolgere alcuni dei suoi clienti. Nino, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, senta, io vorrei capire, se ho un gruzzoletto da parte, quanto mi va a incidere sul redditometro, e spiego perché. Se io stipulo un'assicurazione di 100 euro al mese per un totale annuo di 1200 euro, secondo i calcoli del nostro grande Stato, devo moltiplicarlo per il coefficiente di 10, quindi io solo per 1200 euro che pago ogni anno per un'assicurazione dovrei avere un reddito presunto di 12.000 euro, cose da pazzi. Ora, se io dovessi fare questa operazione con lo Stato, cosa va a incidermi sul redditometro? O me lo calcolano zero, dato che io do i soldi al mio grande Stato che mi sostiene? Ecco, mamma mia, Nino, com'è polemico. Buongiorno, comunque grazie. Lupotto, che cosa possiamo rispondere a Nino? Tenderei a dire che non ho ben capito la domanda. Adesso appunto questo coefficiente di moltiplicazione diretta, se lui dice investe 1200 euro in un'assicurazione privata appunto per lo Stato, praticamente sulla base delle regole del redditometro, che adesso io a spanne così non mi ricordo, fa una valutazione presunta delle sue condizioni reddituali di 12.000 euro, vorrebbe sapere. Nino, facciamo una cosa, mi riservo magari di prendermi un consulente fiscale esperto su questi temi per risponderle in privato, poi la recupereremo, appunto la metteremo a disposizione anche un consulente appunto di un altro tipo, più che di risparmio, appunto proprio qua c'è anche un legame con il fisco di altra natura. Allora, Pietro Poletto, noi fra poco ci dobbiamo salutare. Posso intanto salutare la dottoressa Cannata, che è già collegata telefonicamente con noi? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La farò divertire tra poco e le riporterò appunto tutto quello che ci siamo detti fino a questo momento e anche le altre considerazioni che i nostri ascoltatori fanno. Ringrazio ancora appunto la dottoressa Maria Cannata, che è direttore del debito pubblico del Ministero dell'Economia, che questa mattina si mette a disposizione anche di Salva Danaio per spiegarci tutta la ratio di questa importante operazione per il debito appunto italiano. Pietro Poletto, fra un po' ci dobbiamo salutare, ultime raccomandazioni su queste operazioni, soprattutto nella relazione con Borsa Italiana. Ma direi assolutamente, l'informazione sono disponibile, come dicevo, sul nostro sito. L'operazione è sicuramente innovativa nella modalità distributiva, nel fatto che è rivolta direttamente agli investitori privati. Il fatto del premio fedeltà è altrettanto un'innovazione assoluta, direi che ancora una volta è un'interessante opportunità di investimento per tutti gli investitori privati. Benissimo, grazie a Pietro Poletto, Gianni Lupotto. Andiamo in pausa, ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio e poi concluderemo la nostra trasmissione con la dottoressa Maria Cannata. Eccoci ritrovati ancora in diretta per l'ultima parte di Salva Danaio. Oggi stiamo cercando di comprendere come funziona questa operazione organizzata dal Ministero dell'Economia e dal Tesoro italiano, che da lunedì lancia il BTP Italia. Ancora buongiorno a Maria Cannata, direttore del debito pubblico del Ministero dell'Economia, che in questi giorni si è fatto un bel po' di giri per l'Italia, soprattutto con due appuntamenti importanti, settimana scorsa al Tesoro, ieri in Borsa Italiana, per presentare questa iniziativa. Come sarà la dinamica appunto di questo prodotto, perché è stata pensata soprattutto per il pubblico retail? Per la verità, dottoressa Cannata, magari possiamo anche ricordarlo, non è stato un lancio estemporaneo. Lei stava meditando su questo prodotto già, se non ricordo male, dall'autunno scorso, lo aveva lanciato a fine ottobre. Non era il momento per presentarsi con questa emissione appunto sul mercato. Adesso le condizioni sono più verso la normalità del mercato obbligazionario in termini generali, ma dei mercati complessivamente, e quindi è il momento di ritornare appunto in questa operazione verso le famiglie italiane, un'operazione che possiamo definire di fiducia reciproca, famiglie verso il Tesoro e Tesoro appunto verso le famiglie, un'operazione che lei ha detto vuole dare e ridare stabilità al mercato. In che modo? Senz'altro, sì, è vero che noi abbiamo cominciato a pensarci un po' di tempo fa a questa operazione, perché noi guardiamo un po' sempre tutte quelle che sono le opportunità per incontrare una maggiore e migliore domanda. E quindi in effetti il primo annuncio è stato dato a fine ottobre di quest'idea. Poi, essendo appunto una tecnica di collocamento abbastanza innovativa, bisognava anche curarne bene i dettagli sotto tanti punti di vista. E riteniamo importante, in particolare in questo momento, far sì che le famiglie italiane abbiano uno strumento che davvero corrisponda alle esigenze di sicurezza e di salvaguardia dei propri investimenti. Quindi, dovendo decidere se offrire un titolo già presente nel nostro paniere di strumenti o fare un titolo nuovo, ci siamo guardati intorno, abbiamo visto cosa mancava nella nostra offerta. Mancava l'inflazione italiana. E però, come credo sia già stato detto, abbiamo voluto dare un rinforzo alla protezione offerta, facendo in modo che l'inflazione che via via matura e che quindi produce un incremento del capitale venga corrisposta non tutta insieme a scadenza, come viene per gli altri titoli indicizzati all'inflazione europea, ma semestre per semestre, anche perché abbiamo pensato a una scadenza che non sia lunghissima, quindi un orizzonte di medio periodo che lascia la persona non sotto pressione di un continuo rinnovo come i BOT, che renda un pochettino di più, perché ovviamente un titolo a medio termine rende di più di un titolo a breve, ma che al tempo stesso non si prolungasse in maniera eccessiva nel tempo. Anche perché ricordiamo che comunque è un prodotto che si colloca nel contesto di una durata media del debito italiano che non è lunghissima, no? È abbastanza breve, sotto i 7 anni, 6 e 8 qualcosa, dottoressa Cannata, 6,84. È abbastanza però, è abbastanza. No, infatti non era una considerazione polemica, era solamente per dire insomma che era in linea. Dottoressa Cannata, fino a che punto il Tesoro è disposto a coprire la domanda? Se ci fosse una corsa alla sottoscrizione di questo titolo, arrivassero 20 miliardi di euro di richieste, per essere così esagerata, l'offerta sarà illimitata oppure ad un certo punto si andrà ad un possibile riparto, e avete calendarizzato altre iniziative di questo tipo nei prossimi mesi? L'idea è di non porre limiti alla domanda in questo caso. Francamente 20 miliardi mi sembrano un pochino tanti. Un auspicio. È un auspicio. l'offerta futura verrà calibrata in funzione del successo di questa prima operazione. Ma un'idea di quello che potrebbe essere il potenziale della domanda? No, non vogliamo assolutamente sbilanciare coi numeri. Scaramanticamente è davvero un esperimento. E quindi vogliamo vedere come va, però non ci sono tetti, quindi questa è un'altra forma di certezza che ha il risparmiatore, che quello che chiede sicuramente verrà soddisfatto. Non è detto che sia sempre così quando si prenota un titolo in asta, perché dipende la banca se partecipa all'asta o anche se non partecipa, ma che affida il mandato a un altro intermediario per la sottoscrizione. Qualche volta possono esserci delle sorprese e non si riesce ad avere esattamente quello che si era sperato. Questo, insieme al fatto del prezzo pari a 100, che quindi non crea incertezze riguardo a quanto dovrà essere tirato dal conto corrente, pure questo è un elemento che dà sicurezza al risparmiatore e che pensiamo che possa essere apprezzato. Oltre ovviamente alla protezione in caso di deflazione, che è totale e che non c'è negli altri titoli, per esempio indicizzati all'inflazione. C'è sul capitale a scadenza, ma non c'è sul valore corrisposto della cedola, sull'interesse semestrale, perché lì, se per caso l'indice scende in un semestre, l'importo della cedola che viene corrisposto ne risente, diventa un po' di meno. Invece in questo caso noi abbiamo previsto che ci sia questo floor, questo pavimento, e quindi se lì dovesse esserci un periodo di deflazione, quindi col capitale che non si rivaluta ma si svaluta un po', il minimo è l'1, diventa 1 il parametro, quindi rimane il valore alla pari. Dottoressa Cannata, prima il nostro consulente finanziario che abbiamo interpellato ha fatto un'ipotesi di flusso cedolare di rendimento dopo il primo semestre in relazione al potenziale appunto andamento dell'inflazione e quant'altro, però ecco, esattamente noi quando conosceremo i parametri di questa emissione, perché se non sbaglio venerdì, dopodomani sarà comunicato un tasso minimo, poi il 22 quello definitivo, no? Esatto, domani noi annunciamo la cedola minima garantita, dopodiché in funzione anche delle condizioni di mercato a chiusura dell'operazione, prendendo come parametro che è il 22, l'ultimo giorno, prendendo come riferimento insomma le condizioni di mercato di quel giorno, definiremo la cedola definitiva. Un ascoltatore ci chiede, dottoressa Cannata, non esiste un rischio liquidità sul mercato secondario nel caso in cui le sottoscrizioni, nella peggiore delle ipotesi, fossero molto basse? No, no, perché noi abbiamo proprio individuato nelle due banche che si incaricano della raccolta ordini e del collocamento praticamente di questo titolo, quotare regolarmente il titolo sul MOT, quindi ci sarà sempre la possibilità di avere un prezzo e di poter scambiare il titolo sul MOT. Questo è un altro degli elementi insomma importanti, perché i titoli, gli altri titoli di Stato hanno il mercato all'ingrosso, l'MTS, come punto di riferimento per gli scambi. Questo è un titolo che teoricamente dovrebbe avere meno scambi, proprio perché almeno per il risparmiatore individuale noi abbiamo pensato a questo premio di fedeltà, che chi sottoscrive all'emissione e lo detiene fino a scadenza avrà questo 4 per 1000 aggiuntivo. Allora, quindi un titolo meno scambiato, però siccome è importante assicurare la negoziabilità, sul MOT ci saranno sempre prezzi e possibilità di vendere o acquistare. Dottoressa Cannata, avrei voluto parlare con lei ancora un po', ma purtroppo il tempo non ce lo concede. Io spero che lei accetti un altro invito per tornare a chiacchierare un po' con i nostri ascoltatori. Grazie intanto e buon lavoro. Grazie. Noi torneremo su questo titolo, stamattina non abbiamo più tempo per farlo. Per tutte le informazioni, il sito di Borsa Italiana, il sito del Ministero dell'Economia, vi metteremo anche su Facebook tutti i riferimenti web appunto per andare a caccia di informazioni. Grazie a tutti, a domani.